Sarei anch'io. Allora l'hanno visto l'altro giorno per l'ennesima volta in piazza. Molti lo reputano l'idiota del paese. Alcuni altri lo considerano un mito. Tutti quanti lo salutano e tutti quanti si chiedono come cazzo mai avrà deciso di chiamare suo figlio Elvis.